Cari fratelli e sorelle, la nostra attenzione si concentra oggi su San Cirillo di Gerusalemme. La sua vita rappresenta l'intreccio di due dimensioni: da una parte la cura pastorale e dall'altra il coinvolgimento suo malgrado nelle accese controversie che travagliavano allora la Chiesa d'Oriente. Nato intorno al 315 a Gerusalemme o dintorni, Cirillo ricevette un'ottima formazione letteraria, fu questa la base della sua cultura ecclesiastica incentrata nello studio della Bibbia. Ordinato presbitero dal Vescovo Massimo, quando questi morì o fu deposto nel 348, fu ordinato vescovo da Acacio, influente metropolita di Cesarea di Palestina, filo ariano, convinto di avere in lui un alleato. Fu perciò sospettato di avere ottenuto la nomina episcopale mediante concessione all'arianesimo, quella eresia in quel tempo molto diffusa, anche oggi è una tentazione per i cristiani, che nega la vera divinità di Gesù. In realtà, ben presto Cirillo venne in urto con questo Acacio, non solo sul terreno dottrinale, ma anche su quello giurisdizionale, perché Cirillo rivendicava l'autonomia della propria sede di Gerusalemme rispetto a quella metropolitana di Cesarea. Nel giro di una ventina d'anni Cirillo conobbe tre esili: il primo nel 357, previa deposizione da parte di un sinodo di Gerusalemme, seguito nel 360 da un secondo esilio ad opera di questo Acacio, infine da un terzo, il più lungo, durò 11 anni, nel 367 per iniziativa dell'imperatore filo ariano Valente. Solo nel 378, dopo la morte dell'imperatore Cirillo, poté riprendere definitivo possesso della sua sede, riportando tra i fedeli finalmente l'unità e la pace. La sua ortodossia, come avevo già accennato, era messa in dubbio da diverse parti, ma i testi più autorevoli confermano assolutamente che era un uomo ortodosso, cioè aveva la piena fede nella divinità di Gesù Cristo e nella sua vera umanità. Ma non vorrei parlare adesso su queste beghe storiche. La ragione perché parliamo oggi di lui è il fatto che ci ha lasciato una eredità molto preziosa, 24 catechesi che espose come vescovo verso il 350, che sono una vera introduzione nel cristianesimo, un cammino alla fede e poi alla vita nella Chiesa. Queste catechesi, che sono anche oggi un vero tesoro della Chiesa, un modello della introduzione all'essere cristiano, sono introdotti prima di una pro-catechesi di accoglienza. Poi le prime 18 sono indirizzate ai catecumeni e illuminandi e interpretano il contenuto del simbolo della fede, dicono che cosa crediamo, perché crediamo e come vive il cristiano. Poi le ultime 5 sono dopo il battesimo, sono cosiddette mistagogiche, che suppongono già che hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione, battesimo, cresima e eucaristia, e interpretano adesso la profondità della fede di questi sacramenti solo dopo l'esperienza sacramentale. Così era la convinzione della Chiesa antica: uno può anche realmente capire che cosa sono questi sacramenti e può meglio capire anche l'espressione rituali dei sacramenti. La istruzione sulla fede cristiana, che era sostanzialmente positiva, interpretando che cosa crediamo, come viviamo, era naturalmente anche apologetica nei confronti delle alternative di vivere in quel tempo, cioè nei confronti del paganesimo, dei giudeo-cristiani, dei manichei. E l'argomentazione del Santo Vescovo era fondata sull'attuazione delle promesse dell'Antico Testamento in un linguaggio ricco di immagini, mostra la sinfonia dei tuoi testamenti, è una catechesi profondamente biblica, nella quale si vede come il cammino della parola di Dio va verso Cristo, è un unico cammino della fede, della storia, della salvezza. La catechesi era un momento importante, inserito quindi, come avevo già accennato, nell'ampio contesto dell'intera vita, in particolare liturgica, della comunità cristiana, nel cui seno materno avveniva, per così dire, la gestazione del futuro fedele, accompagnata dalla preghiera e dalla testimonianza dei fratelli. Questo era un momento molto importante, non è una catechesi solo intellettuale, ma un cammino di imparare a vivere la vita della comunità cristiana, sempre accompagnato da questa comunità, così che hanno capito che entrano in una grande compagnia di cammino. Nel loro complesso, le omelie di Cirillo costituiscono una catechesi sistematica e realistica sulla rinascita del cristiano mediante il battesimo. Una citazione. Dice San Cirillo al catecumeno: sei caduto dentro le reti della Chiesa, lasciati dunque prendere vivo, non sfuggire, perché è Gesù che ti prende al suo amo per darti non la morte, ma la risurrezione dopo la morte. Deve infatti morire e risorgere. Muori al peccato e vivi per la giustizia fin da oggi. Dal punto di vista dottrinale, Cirillo commenta il simbolo della sua città di Gerusalemme col ricorso alla tipologia delle scritture, come accetto in un rapporto sinfonico tra i due testamenti. Quanto alla catechesi morale, essa è ancora ancorata in profonda unità alla catechesi dottrinale. Dottrina e vita sono non due cose distinte, ma un unico cammino dell'esistenza. Il dogma viene fatto discendere progressivamente nelle anime, le quali sono così sollecitate a trasformare i comportamenti pagani in base alla nuova vita in Cristo, dono del battesimo. E finalmente la catechesi mistagogica introduce a scoprire, sotto i riti battesimali della veglia pasquale, i misteri in essi racchiusi e non ancora svelati. Illuminati dalla luce di una fede più profonda in forze del battesimo, i neofiti erano finalmente in grado di comprenderli meglio, avendone ormai celebrato i riti. In particolare, con i neofiti di estrazione greca, Cirillo faceva leva sulla facoltà visiva a loro congeniale, era il passaggio dal rito al mistero, che valorizzava l'effetto psicologico della sorpresa e l'esperienza vissuta nella notte pasquale. Il mistero da afferrare, quindi, è il disegno di Dio che si realizza attraverso le azioni salvifiche di Cristo nella Chiesa. A sua volta, alla dimensione mistagogica si accompagna quella dei simboli, esprimenti il vissuto spirituale che essi fanno esplodere. La dimensione mistagogica attua la sintesi di dottrina e morale orientando alla celebrazione sacramentale in cui si realizza la salvezza dell'uomo intero in tutte le sue dimensioni. Possiamo alla fine dire si tratta di una catechesi integrale che coinvolge corpo, anima e spirito, e questa catechesi integrale che integralmente tutte le dimensioni della nostra esistenza resta emblematica anche per la formazione catechetica dei cristiani di oggi, e preghiamo il Signore che ci aiuti di imparare un cristianesimo che realmente coinvolge tutta la nostra esistenza e ci fa così testimoni credibili di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Grazie.